Taxi va, aspetti, un minutino di tempo, voi iniziate a andare. Vai, vai, su, vai, arrota il coglione. Aspetta un attimino, Leoncino. Attenzione, Leoncino. Te lo ripeto un'altra volta, ma ce l'avevi per caso con me? Il nome mio, ma hai detto una cosa che di solito scherzando diciamo spesso, ma ce l'avevi con me per caso? Ho fatto il nome tuo? Dimmi, ce l'hai, abbi il coraggio, ce l'hai con me? Ho detto, ma ce l'ho con te, ho detto, ma ho fatto il nome tuo, e allora per cortesia, non c'ho niente che a dirti a te, per favore, non c'ho voglia niente che a parlare, capito? Ci siamo capiti? E allora punto e basta. Ce l'hai con me quindi? Ma i segnali li sai riconoscere, sì? Tu ce l'hai con me? Torna, tornato ci sei, tornato ci sei. Oltre che non ho fatto il nome tuo, io con chi stava mettendo la portante, quando c'è un QGO che stanno facendo, altra gente, sono pregati di svuotarsi, punto e basta. Abbiamo capito? Ascolta, ma ce l'hai con me? Sono problemi, ne parliamo, ce l'hai con me. So, chiudimi lì il discorso, per favore, chiudimi lì il discorso, perché non voglio farmi girare già i coglioni, hai capito? Per cortesia, allora, se devi andare a fare un altro coscio, tu ti allontani di qualche canale e non devi rompere le scatole a nessuno, abbiamo capito? Mi sta minacciando, allora aspetta, sto venendo sotto casa tua un attimo. Cosa? Ma non ti temo me. Devi temere perché non c'è bisogno di temermi, ma se c'è qualche problema, vieni che ve ne parliamo un attimino. Oh, Anto, per favore, non voglio perdere chiacchiere, fai la cosa. Stai tranquillo e non rompere le scatole, capito? Non rompere le scatole, Anto. Se io non ti ho fatto niente, tu non mi hai fatto niente. Allora, per cortesia, non ci voglio niente a che fare, bene va. Punto e basta, chiudiamola lì. Scendi un attimino, sto arrivando, un attimino, ne parliamo. Non sai riconoscere i segnali, evidentemente non sai modulare, adesso scendo un attimino e ne parliamo. Ascolto, guarda, non ho la voglia tua, per favore, di sentire le solite cazzate, capito? Non voglio la gara tua, capito? Per cortesia, chiudimelo lì il discorso, per favore, non ho voglia di niente di parlare, capito? Già sono stanco e ho le scatole girate per conto mio, non devo dare spiegazioni a te, capito? Sì, sto scendendo sotto casa tua, scendi un attimino che parliamo, te lo sto dicendo per l'ennesima volta, scendi, non ci sono problemi, scendi però. Gianni, uscendo sto? Cappa. Aspetta un attimo, c'è questo impiegato lì, ah, culo, scusa. Ok, aspetta. Ale, qua se va bene così? Sì, ci sta facendo bene. Perfetto, ti dai. Buonasera a tutti, dai. Gianni, scusami un attimino, guarda che sto facendo una pazza, che mi dai il numero di Leoncino un attimino. Se non metti buono in mezzo a me queste cose, va. C'è perdere, io non sono autorizzato a fare il numero a nessuno. Procura, non c'è problema. Magari mi fa bisticciare con lui per queste cose, no, non ha, lasciate perdere, lui sicuramente dica, non ha detto nel senso, non ha detto nel senso per offendere a te, ma ha detto dicalo come Dio sfronto, una cosa del genere. Il problema, siccome scherzando prima di una volta si è usato questo appellativo, adesso siccome da come ha parlato sembra che ce l'abbia con me, adesso scendo a casa sua e chiariamo un attimino. Tanto? No, guarda, io all'inizio lo conto, non va contro bene, non l'ha detto per cercare a te, l'ha detto zingaro come del pellegrino, una cosa del genere, ma non perché e tu hai sicuramente il fatto di far visto che gli figli si chiamavano zingaro, eccetera, eccetera, hai magari collegato le cose, ma forse le collegate in maniera sbagliata. Avanti. Buonasera a tutti, sono Sondici, mi sono allontanato per più di uno. Buonasera a tutti, chi c'è? Sì, perché stavamo mettendo la portante, ci siamo spostati. sempre aumentando di più anche di segnali. Sono anche abbastanza. Ma è già da qualche giorno e c'è qualcuno appunto anche la portante là. E mi sono abbassa a volta o Gianni. Ma è nella zona qua, perché a me anche l'altro giorno da bombo mi copriva e mentre io qua lo duro sentivo benissimo. Allora per pazienza. Comunque buonasera a tutti. Vado su 10, ho visto non c'è più nessuno girato e siete qua. Posso dire la mia? È un testo di minchia che è molto sicuramente è vicino, perché io lo sento anche con l'alternanza. È un testo di cazzo che è in questa zona sicuramente, hai capito? Cazzo mi hai, oh Claudio. Sto uscendo, sì. Ehi, già stai uscendo. Comunque è un minchione che c'è in questa zona qua, perché è una cosa un pochettino strana, perché mi arriva con l'alternata questo testa di cazzo. È per quello che mi sembra strano, hai capito? Sicuramente è nel circondario di questa zona qua. Ah, se io potrei essere anche d'accordo, ma alla fine tanto sono solamente parole buttate al vento, tanto non lo becchi, lui ci gode, dunque alla fine non ne vale manco la pena. L'importante è boh, andare in FM che ci sentiamo uno più meglio dell'altro, non c'è problema e lui si può divertire tranquillamente senza disturbare nessuno. Meno male canali ce ne sono, ecco. Questo è il mio modo di vedere, comunque. Avanti Leonci. Ma sicuramente non c'è il 45, se no c'è una possibilità anche qua. Meglio ancora, vedi, le possibilità ci sono. Avanti Leonci. Un malengo, è un malengo che è in zona, hai capito? Non fa manco luci, ma ne sono accorto perché cioè, ho confrontato il segnale con un altro apparato, ho detto chi c'è un, questo qua è il coglione della zona, è un malengo, già me l'ho messo immaginato Burugare, ma appena che te la conferma ho visto tanta ciaffe. Arrivano 9:15. Ah, quindi immagini voi, infatti, che ha pigliato Giappe. Così succederà esso, succede, appena che ne ho la conferma. E che non me la fate assolutamente inutile a me. Capito? Lo sai cos'è il bello? Che era un po' senza entrare, ma che schifo, che mondo è taglio. Lo so pure io come sta la situazione. Perché prima c'avevo il digitale, c'avevo qualche dubbio, hai capito? Poi quando ho preso quello analogico, che è questo, ho confrontato il segnale, me ne sono accorto, quello lì, che era quello lì, è quello scemo che ogni tanto rompe le scatole, insomma. Tutto qua è il discorso, che non sa che cosa fare e ci c'entra il dito di dietro, hai capito? Vabbè, veramente d'accordo. Ci sono milioni di discorsi, cosa togliamo stasera per passare una giornata così tranquilla? A te ti piace pescare? Ma sinceramente, non è che abbia la passione, comunque il fatto sta che ci sono andato la verità una o due volte nell'arco della mia vita e ho pescato, la verità, e anche abbastanza, confronto ad altri che hanno è una vita pescando, non ho preso niente il giorno, io abbastanza. Colpo di culo, come si dice. Culo del principiante. E a cantovare, ma il giorno è una cosa impressionante. Posso fare un nodo, non è che sia così tanto pratico, si impara in fretta, per carità. Però, perché no, una serata si può anche passare, un fine settimana, volentieri. E lo organizziamo là. L'anno prossimo sono in ferie, quindi organizziamo qualche cosa, magari anche ci vede con i bambini al mare. Settimana se tu non lavori, magari si può organizzare anche se non è di domenica. Sì, perché no? Un venerdì non stacca già se stato. Gianni, ma mi stavo chiamando su 10, ma non ce l'avessero. Perché c'è sempre questa festa di coso che stava nella porta. E ci siamo spostati. Ma te te arrivava forte? 9:15. Non so, ho capito chi è. Ma non è a canali di occhi, però. Che non è a canali alti. Infatti, l'ho fregato così. Però al minimo qualche, come si dice, qualche portatile, possibile. Catalani. Scusate, se non avete chiamato, scusate che ho il telefono, se non avete chiamato. È cappa, è un malengo, di zona, è un malengo, tranquilli, perché me ne sono accorto io, perché mi arrivavo con quel cazzo di alternata. È un malengo di zona che a me mi arrivava molto più forte di tutti, hai capito? Ma poi c'è anche quello che abita vicino a te, che ha sempre disturbato, no? Perché quando noi non la sentiamo, capito? Quindi non possiamo insinuare, non possiamo continuare a romperci le palle uno con l'altro, abbiate pazienza. Cioè è assurdo, l'ha detto anche Luca poc'anzi, io qua manco la sento la portante, se è una portante forte, qua a me mi arriva a fondo scala e vi copre a tutti, se non dà fastidio a voi, è una portante che ci avete lì, da qualche parte, boh, non lo so, ma penso che sia qualcuno lì proprio vicino a voi. Guarda, io ne sono sicuro di quello che dico, secondo me è vicino a me. Ce l'ho proprio di fronte, ce l'ho, è un testa di cazzo, ho detto proprio in parole povere, che appena cazzo che ricubieggio, mi puntano la macchina di sotto, cazzo, ricubieggio appena cazzo, come 10 da gara ti ricubo una pista, cazzo, se molto fa 4 volte la parrucola. Basta farli così e alla fine Ah, dell'altro vetto, dai, già si possono mettere le cose a posto. Io me ne sbatto le palle, la verità. Sì, va bene, ma tutti lì, sembra tanto che sia sempre io a promontare il tutto. Va bene, divertite, Luca, riprendi, buonanotte a tutti, ci sentiamo alle prossime, ciao. Ma perché? Aspetta, Claudia, che non la fotte, aspetta. Tutta dolori, tutta dolori, oh no, tutta dolori. Oh, ma quanto me, come mi dici? Che mi dici come gira, come non gira questo barracchino, che? Vorrei che benissimo, senza erbo di dubbio, che si sente veramente bene, la verità. E poi per il discorso di prima, giustamente, vorrei dire anche la mia, ma per quale motivo bisogna, dovevo fare tante polemiche per una semplice portante, Bonarre, no? Un semplice microfono dove schiacciano e disturba, qual è il problema? Basta cambiare canale e si finisce lì e si continua a passare una serata più possibilmente divertente, tutto lì. Guarda, è talmente semplice risolvere il problema che tanto poi alla fine, ripeto, le persone sarebbero buttate al vento. Per quel motivo Claudio, poi giustamente quello sono il suo modo di pensare, deve buttare così via la spugna. Per chi? Alla fine? Per un microfono? Non riesco io a concepire la situazione. Comunque, sono sempre i punti di vista. A te la scelta. Perché? Gli sa per becca, allora riprendo io, allora Tone, siccome c'è, è come dire, io ce l'ho con te, no, faccio il coglione e ti mi nascondo a metterti la portante. Se ho qualcosa con te, te lo dico, passa così e così, ti sei comportato male oppure ho qualcosa con te, perché non lo prendi con gli altri? Cioè gli altri vogliono rompere le balle, non ho capito. Cioè non è la cosa giusta. E poi sai cosa succede anche? Che uno si può fare anche forte dietro un baracchino, ok? Però se lo scoprono, si caga addosso, si caga anche le mutande, dice io sono, tu sì, e gai, mi sbatto sotto casa tua, sei tu, non puoi negare che se non sei tu. Tu hai buone a bocca te puoi nega, a chi si caga in alto, avanti il black. Ciao Ariello! E Daniele? Ehi, vabbè. Dove sei? In macchina ce l'ho. Ciao Daniel, mi hai sentito? Compagnia mia, compagnia di Antonello da Ossi, poi c'è Claudio, Gianni, non mi ricordo, comunque se mi dimentico di qualcuno io chiedo scusa. Allora, ripeti tu Antonello. Buonasera, ben sentito, c'è Doppio Room, Leoncino e Bombolo, Claudio e tu e io. Brava, dai, buonasera a tutti, dai. Come sta arrivando la quale perle? Oscillante a Santiago 9, abbastanza oscillante. Comunque la radio è bella 5 pulita. Che cosa in forte sta arrivando, però? Vabbè, giustamente io sono una zona alta, dunque sono abbastanza aperta come zona. E io da parte tua? Wow, questo Smith è generoso, lo devo tarare, qua sta arrivando, questo è digitale, quindi non te lo so dare proprio giusto, ma sei 9.25, dai, al massimo mi sta dando. E in che zona ti trovi? Adesso sono giù alle Conce, giù dove c'è l'orto botanico. Ah, perfetto, va bene, sono in linea d'aria già... Già siamo abbastanza vicini. Avanti, Bombolo. Come arriva qua, oh? Quanto è? Dove, così, Santiago 9. Ah, mi senti? Bombolino, forte e chiaro, dai, sto togliendo un po' di ruggine a questa antenna, dai. Questa magnetica. Chiama, sono aperto per strada già, dovrebbe essere ancora magnetica. No, non la perdi per strada, vai piano con la macchina. No, ce l'ho nell'altro, nella 500, no? Ah. Non sia mai quella la tele immacolata. Ma no, Gianni Ghe, buonasera. Lì la perdo veramente. Ma come sei, Daniele? Sono? Sono qua, all'Eurospin di Santa Maria. Ne sono forte. Cos'è, non sono magnetica? Allora, c'ho la 1000 con la magnetica. Zappa, ma 500? No, come appunto, no, io non mi fido a metterla al cacchio. Ecco, però arrivi bene, dai. Arrivi bene, cappa. Non aiutare, sono stato all'ospedale, mamma mia, posso avvelga. No, io parlo con la mia ricca. Si è fatto bene. Ah, no, operano. È positivo. Ma e come mai? Sto benevare, amanti sei. Calcoli renali. Ah, già, roba, niente, allora. Sono qua dove c'è la croce rossa, al viale, dai, Antù. Tappa. Perché un passaggio mi ci è arrivato un bel forte. Ehi, cazzo, già non sono il tuo torno in macchina, il parraglio, eh. Anche nostalgia avevo. Che baracchina c'è in macchina? C'ho l'Itec, il 490. Ah, cavaga, oggi esce bene, c'è bene. Sì, beh, cioè che un amplificato riesce ancora a meno. Figa, c'è un amplificato, questo santo che c'ha a 8 così, dai, o a 6, adesso me lo ricordo, a 6 o 8, perché c'è anche il microfono e puoi cambiare i canali e tutte le cose. Up down. Poi doom. Up down. Cioè, ma la metto bene con la radio. Stasera lo proviamo se toglie un po' di ruggine, non so neanche se l'antenna è messa bene, c'è stazionale. La voce tua perfetta. Poi vertica. Sì, il microfono fedele. Allora. Non so se si chiama fedele oppure si chiama Roberto. Signori, io vi saluto a tutti i componenti del canale 45. Vi auguro la buonanotte, ci sentiamo tutti quanti alle prossime e buon tabacco per domani chi lavora. Ciao, buonanotte per la parte mia, quelli qui per me. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao Giuseppe, sentiamo, buonanotte. Avanti Antonello. Eia, ciao Leoncin, buonanotte. Alle prossime. Ciao Leoncin, buonanotte, alle prossime. Avanti Claudio, se ci sei. Ah, la pigliata a mare. Leoncin, buon proseguo, dai, buon trabacco per domani. Allora è l'aria. No, sono sotto casa sua, sto aspettando che scenda, sono quasi arrivato. Andava, no? Va bene che va bene, gatto. Che era. Fianco per me un attimo. Senta. Via. Attenzione, binario 45esimo. Attenzione, binario 45esimo. Sentite, ascoltate Luca qua, Nord Sardegna che chiama. Gap. Un passaggio, quanto di voi? 3,50. Ciao, che ero con Lorena che sta facendo lo squillo. K e K, no, non quella bomba l'apparecchiato, è nuovo anche, è nuovo, capito? Non ci stanno problemi, dai, Gap. Centro di là me lo prendo io. Come? Ho detto, se entro di là lo prendo io. Che cazzo? Ce l'avrà già venduto. Daniel. Vabbè, se no pazienza, intanto devo modificare questo. Oh Daniel, tieni quello, tieni. Ehi, vabbè, questo lo volevo fare, quel lavoretto dell'eco e trick e ballacche. Tanto il 45 e tutti e quanti, sopra e sotto ce li ha questi, li ho fatti io. No, non è che voglio, però per far tirare con gli apparecchi ci vuole la porta grossa. Già lo so, però Luca lo fa andare lo stesso, la voce grossa non ne ha. Ci vuole la voce particolare, ci vuole per far tirare con gli apparecchi. Troppo è così, Sì, va lo stesso, non è che non vadano, ma per dare il top ci vuole la voce prepotente. È perché io non riesco a farlo andare, Bombolini, perché io non ho la voce mascola, Sì, no, niente da dire, però è capito. Però uno che ha la voce più grossa lo fa girare a mille. È positivo il caparroio, dai. Adesso mi metto a fumare nazionale, mi si fa la voce cristallina, vabbè. Andiamo a fumare. No, sto fumando, ripreso vai. Saranno. E babbo. Chiediglielo. Saranno che se mi piglio con l'acqua, le fustinose, le sigarette, ma manco più a vederne. Fitto Luca, manco a vederne, ma manco a vederne. Ti fumando tu? Oh, i 2 anni e mezzo che ci se le possono mettere nel culo. Ma te la metti una volta tua con la sigaretta elettronica? Beh? Te la metti, la sto provando. Bianco un attimo. Sì. Vabbè, dai, non ci stanno problemi, dai. Ma Claudio, mi cazzo, Claudio! Spariero! Voci di gomma, vedi? Non c'è. Vabbè. Sarà un pochettino di malumore, dai. Ma non verrà bisogno di pigliarsi da tanto. No, non è successo niente. Dino che è deputito. Aspetta un attimo, tu. Sì, a 10. Papà. Ma guarda, arricchi, ma non c'è più nessuno. Eh? È Gianni. Sì, altrove ci sì. Che morti. Oh, c'era, vabbè, ho fatto un attimo di bianco e stavo facendo una cosetta. C'era Antonio, c'era Luca. Sul 10. 10. E K 10 normale. Cava, io sul 10. Io ho letto che non è stato il sole, ma è il cane, è il sole. Signor Gazzino, pure Stefano gli è esagerato, ha avuto tanti messaggi, se macco. Aspetta un attimo. Ma quali siete trasferiti? Io, Daniele. Non c'era nessuno là. Avevo chiamato, c'era Gianni. Infatti la eravate qua. Gianni, ci sei? Chi c'è qua? Tutti qua siete? Volo. Ciao. Daniele. Dai. Anda per la veda. Quando sta arrivando adesso, Antu? Sei Santiago Nove adesso. Comunque Luca, quando ci sono questi problemi per evitare discussioni quella e quell'altro, conviene fare una cosa, prendere e andarcene in un altro canale più su, dai, e risolviamo tutti i problemi, anche di uno. Fatevi al 15, no, non mi hai capito. Oh Luca, non mi hai compreso. Ho detto, quando ci sono questi problemi, per evitare tutti i discorsi che ci sono stati, conviene prendere e andare, per esempio, su 41, su 42, roba così, hai capito? Ma al 45 c'è più nessuno? Ma penso di no. Aspetta, salgo un attimo. No, non c'è più nessuno. Ora la cipolla. Ora. Non c'è più nessuno. Anto, guarda questo passaggio. 1, 2, 3, 4 e 5. Oh no, guarda. E guarda questo. Ora, ora, ora, ora la cipolla. Cosa succede? Come è barata? Gara, gara. No, arrivi forte, Daniele, non c'è problema. Sì, va bene, siamo attaccati. Tu già lo sai dove sono adesso, fermo. Capo, no, ti ascolto, non c'è problema. Forte chiasso qua. Aspetta un attimo. Tu, è micidiale questa antenna, piace un bel. Cosa? Una mille. È una bella antenna. Non ho capito. Ho detto, cara mille, mi piace troppo come antenna, come resa, mi. La mille di che cosa? Midland, Sigman, cos'è? PLC. Ah, è bella, è buona. Poi già trovo un'altra della Sigma, a vedere cosa succede. PLC 1000 Sigman. Cazzo, questa ce l'ho, anni ce l'ho. Non so più, ma allora, ragazza, mio zio ha un compleanno. È bella antenna, è buona quella, grande. È alta. Messa con la base magnetica appoggiata per terra e più alta della macchina. Ce l'ho sorta. Ma secondo me ha l'altezza quanto la turbo. Più o meno sì, Ci siamo come lunghezze. Gara. 48, l'ha mai vista. E quale tu? Tony. Mandica. E non c'era anche quello di Ussi. Tu, oh, Antonello, ci sei? Sì, vabbè. E diciamo che c'è l'aria. Sì, a prendere una boccata d'aria, dai. Cava, prenderci un po' di fresco qua. Ah, faccio un getto qua, in città, così. Bevo un caffettino al volo e ciccia. E poi entro a casa presto e davanti a svegliare presto. Scappala, noi sono andati a scoprire l'ospedale, come ti ho detto. E niente, se domani la operano e vediamo se andare o meno. Ma non lo so. Vi dimmo su cosa fare se. E non lo sai se lo operano di mattina o di sera? Domani mattina. Sì, no, ma i calcoli già sono veloci, dai, dove ce li hai, Reni? Mi sa di sì. Sì, già roba veloce, dai. Già, fanno in fretta. E non hanno capito la cosa di pesare la febbre, no? Tutto da lì. Allora c'è l'infezione. Vabbè, devi urinare, quella zona lì. Sicuramente sì. Penso che trovo sta Vespa. Che sì, bella rita, troppo forte. Adesso la condivido. Sì, a voi l'hai motto. Sono special 58 con le scritte San Carlo, delle patatine. Fuori di capo, bella rita. Oia, oia, oia. Bambolino! Come qua? Quindi stavo dicendo, Luca, facciamo così, dai, quando ci sono qualche problema ce ne saliamo subito in super. Questo macello che è successo, capito così. Non c'è problema, mi sentite? Sì, ti sento. Aspetta un attimino che aumento qua. Ok, da. Questo vuol dire andare a fighe, boh. Io ogni tanto in città con lo spinotto accendi i sigari, cazzo, boh. Aspetta un attimino. Ok, adesso faccio così, dai. Che è successo lui? No, niente. Ah, provo a fare un passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, attenzione Daniela, ascolti Luca qua, Sì, dai, già va bene, già va bene. Anda Benemeda! Ti piace questo volantino? Eia, se riprendo io, lo prendo io, te l'ho già detto. E scappa. Luca, prova a vedere se è attenuato. Cosa? No, ti ha attenuato, vedi quando stavi arrivando. 1, 2, 3, 3, fate pagando. 3, qua, buono, non sono attivato adesso. 1, 2, 3, prova, attenzione, attenzione, bombolino, bombolino Antonio, ascolti Luca qua, cosa frappando? Attenzione, bombolino Antonio, ascolti Luca qua, guarda. Santiago 7 si è attenuato. Sto spingendo e sta pompando. Quando ti arrivo a casa? Sai. Può essere prova. Sì, sul 3 del più 30, del più 30. La miseria. E allora sarà. Penso 9:20, dai. Bombo, guarda, ti sta arrivando adesso. No, sì, 9:20. Sta giudicato, ma la città sempre 9 sono. Sì, così, 9, 7, 9, 7, 8. Così fai. 9:10 qualche volta. Eia, eia. Cazzo, una merda, stacca. Si spegne il motore, cazzo, si spegne tutto. Come si spegne il motore? Dico, spegni il motore e non si sente, si stacca tutto. Ah, perché devi tenere il quadro acceso, non è? Sono tutte così le macchine. Ma se accendi il quadro acceso, te ne butta giù la batteria. No, posso spegnere il fare, non succede niente. Ciappa. No, è fatta così, è fatta. Sono tutte così, tutte, le macchine moderne, tutte anti così. Allora, riprendi, Lugarie. C'è stato un messaggio. Guarda, guarda. Tu quella puoi modificare. Vale. E poi puoi tenere l'intenzione, puoi farti fare la modifica dell'auto. Fitto. Eia, ma se io che non hai mai visto un'antenna a casa? Senti. A Santa Maria. Beh. C'era uno, cazzo, si è affiancato dalla macchina, cazzo, giovane, è fico in culo, Non so come sarà niente. Poi uno che conosco di vita mi sta sempre sulle balle, cazzo. Sì, sappi, sì. Stavo dicendo che lo puoi fare anche con lo stereo, per farlo rimanere acceso, già si può fare la modifica. La radio lo fa, la radio già resta accesa, poi si spegne e poi lo riaccendi. Ciao, anda per la vera. E per lasciare lo stereo acceso, nella strada abbiamo fatto una modifica e è andata bene, dai. Eia, eia. Ciao, ragazzi, per vedere, manda a trovare questo messaggio. Saggio. Sì, sì. Dai. Cara, cara. Non voglio anch'io, cazzo, ecco. Attenzione, binario 45, signore 10, questo qua. Lo vuoi? Compratelo. È incomodo, erate mensili. E sposta tutti i sedali. E allora, sono già in via d'Italia. Vieni. Capito, va. Hai giugato. Lorena. Luca. Ciao, vabbè. Ciao. Senta, mi intendi, Lorena, mi intendi? Ya. Yeah. Altra mia amica adesso mi ha scritto, una mia amica, 45 anni, ha due figli grandi anche. E mi ha scritto, Lu, ti voglio una cosa, dimmi, sono incinta. E ti ho detto, Coccolo. Siamo in due, scusa, Crocro. Dai, la marmellata, la Nutella, Coccolo. Ciao. Davvero? Andy? Sono qua, no, l'ha fatto il birichino, ha fatto, beh. Si è fesso un attimino, l'ha lasciato da solo e ha fatto danno, beh. Vabbè, va. Ma come, tanto lo lasciare, vai da solo, eh. Facci sempre appresso, perché sennò fa danno. Vabbè, va, già non funziona niente. Ma sì, dai, già va bene. Si sa. Cosa, Antonio? Si sa se è maschio o femmina. No, oh, ehi, ancora è presto. Magari! Scappa. Ci vediamo. Io così non è. Non è te, cioè, non è tempo, è un casino con lavoro. Io questo è il minimo che mi sarei fatto, 20 figli. Però purtroppo non. Casino, sono belli i figli, sono belli, però. Non ci sta il lavoro, capito? Non ci sta il lavoro. Vabbè, lui, dai, se mangiano i 30, mangiano i 31, però ci sono anche una serie di circostanze che bisogna anche avere, capito? I figli, un tempo li chiamavano i cavalieri di Braghetta. E non ne facevi un bel cavaliere di Braghetta? Fate il cavaliere di Braghetta, tanto vai. Scherzi, il cazzo. Anzi, comunque la verità, un tempo c'era proprio questo detto, c'era, che magari molti non lo sanno, che prima dice che uno quando faceva tanti figli lo gli davano il titolo di cavaliere di Braghetta. Prima non c'era il televisore, quindi facevano figli a fiume. Oh raga, prima quando gli uomini tornavano da lavoro, era quella la ragione. Da fare ci davano. Era così prima. Vabbè, altri tempi erano. Altri tempi. Non l'ho mai sentita la storia o così questa storia qua, non l'ho mai sentita. Spera, tu ti sto perdendo, sono qua in mezzo ai cespugli, cazzo di Viale Dante. Gappa. Adesso ti ho ripreso, dai. Cazzo, mi bisogna l'antenna, questi alberi, ha fatto 13. Io ci arrivo, se lì, sì. E allora, tu già arrivi, cacchio. Tu già arrivi, però qua Antonio lo perdo, capito? Vabbè, Antonio c'ha anche io picco. Ma io sono andato un po' più fatto, mi dai, 2 fatti, 3 fatti, già vai bene, cazzo, ne sto portando gli alberi, però già vai bene. Cappa, andate, dai, sono le 11, ancora 5 minuti per chiudere. Già va bene. Ehi, almeno ci sono fatti 2 chiacchiere, dai, tutti quanti assieme. Anche per Reda, cazzo ero, l'ultima volta che l'ho usato era il furgone. No, mi stavo chiedendo di questa tipa, ma deve stare, voglio stare solo, ma fu un cazzo. Lui, non è intenzione di stare con una donna. Non mi interessa, vabbè. Io. Vediamo un po' ci dicendo Daniele, cambio. Adesso il radio sei molto più forte, Antu. Cavaiava, sono qua, via Duca degli Struzzi. Le donne sono un danno, donne danno. Donne danno, non te ne danno. Sono cose che succedono. E non te ne danno. Ma cosa cazzo vai? Chi è? Io sono io. Chi è Luca? Io sto a capire. Daniele, Antonio, è più che modificato. Che casino, porca paletta, che casino. È gay, è uno casino, sei cazzo. Sono gay. Perché non mi senti? Antu, ti sto perdendo, gà. Mi stai deludendo, sono qua, alla Gonzaga. E che dove stai andando? Al cubo! Al cubo! Ma non vado a risacciare! Al andato su Salerno tu? Di sostili. E lui, fai su la giura. Kappa, vai. Luca. A Luca si è ambioccato. Guarda lei, Santu, tu sempre mi ascolti. Io ti ascolto già, e tu mi ascolti. Adesso vediamo qua cosa dice, dai. Se riesco a tirarti fuori da qua. Dai, vai, vai, ma cazzo, tutti male ti guardano. Oh, no, no. Chi sono? Sto rispondendo a questa qua, Marco di Cugliolo. Oh, yeah, yeah. Hey, yeah. No, non sentivo più a Bombolino. Adesso dovrei tirarlo fuori. Prova, van tu. Attento, mi ascolti. Ehi, qua il quadrato già arriva, dai. Dilli così, Luca. E va tutto bene. Va bene che va bene. Attenzione, Daniele. Daniele, ascolti Luca qua. Senti, Daniele, senti, va. Senti, Daniele. Daniele, senti Luca, gatta. Sordo mi stai facendo, sordo. Sordo o sardo, gappa? Tutti e due. E io arrivo. Oh, abba, poi da tutto. Cambio. Adesso so, sei sorda. Ti perda tu. Adesso sto andando in un punto, se non ti arrivo lì ci butto tutto. Arrivi, mi arrivi, non ti preoccupare. Ma se percolato parecchio, che questo fa troppo casino, fa cambio. E altro, guarda, se mi dai, se aspetti ancora 5 minuti, voglio vedere come ti arriva da quella zona. In campo al mondo. Paolo, sei in campo al mondo. A te forse ti arriva bello forte. Ma qua non si scende per niente, sei sempre 9.30. Quale? Ho funzionato mezza salta. Oh, via l'Italia, usavo la zona lì, cazzo. Il quadrato. No, qua non c'è problema, no, vabbè io... diciamo, quando uno ha l'antenna sul tetto è normale che poi non ha problemi, poi sei in zona, dai, sei sempre a sasso, ma anche se ti sposti non c'ho problemi, dai, tutto dipende da te, quando hai una buona massa e 5 watt sotto gira bene il baracchino, Ciao, aspetta, non so quanti ne hai stato, quanto ne avevo buttato dentro, ma non fai solo quei 6, capito? Non lo saccio. Adesso ti arrivo forte a te, lui. Pure a me mi arrivi forte. Ehi, arrivi sempre a me, Daniele, non c'è problema. Lascia prendere la tua aspetta. Attenzione, 10, gappa. Cosa hai inventato, Lecco? Positivo, faccio così. Attenzione Daniele, ascolti Luca qua, gatta. Senti come gira l'elicottero, gatta. Ehi, aia, gira, lascia Gai, cacchio, lascia Gai. Adesso glielo faccio io. Attenzione Daniele, cambio. Tu, forte e chiaro, gappa. Aspetta, dai, 5 minuti. Mi sei tutti i belli forti, aspetta. La passo appena. Dove sei? Sono andato al Belvedere. Esci a vedere se da lì ti arrivo. per vedere. Ma quale? Un pozzo, un bel pozzo. Io già lo so per vedere. Dov'è? Là c'è quello che dico io. Sali a San Francesco. Cava. No, fa una cosa, farla direttamente alla Pirozzi, se mi intende in voce. Così è semplice. Cava, dove sei arrivato adesso? Sono quasi arrivato. Se non c'è nessuno, voglio fare la prova. Ah, mia, che libero, eh. No, c'è gente. Ma non frega nulla. Sì, sono le copiette schiacciando. E le formiche schiacciano. Sì, che formica, A raccogliere, tutti a raccogliere cozze. È occupato, è qua. Oh, iaia, va bene. Aiutai, vediamo se mi trovi. Quanto ci vuole a cercarti, hai zitta in giro qua. Non mi picchiate, stai qua, cro. Chi ti picchia? Dove compare? Aio, cercami, Dania. E cercami. Vediamo se sei così bravo. Guarda adesso, c'è uno che è venuto col gippone, l'L200 direttamente. Ma con le lancette? L200! Santo, com'è? Adesso sei forte. Quanto forte? Ehi, affanculo, non mi posso avvicinare qua. Adesso sei più di 9. Aia, vai, riprenditela! Lascia adesso combattere con questa. Prima sta donna, cazzo, ma per carità, tu che sei deciso? Troia, qua sono tutti che ci do, porca miseria, Caritello, e ti la ciappo. E fregatene tu, dai, già c'è quella buona, dai. Io me ne frego, se vuoi se me ne frego da me. La frutta Sam, basta che si munga, le pecore, va bene lo stesso. Come già te ne procuriamo, te ne vuoi? Tu devi procurare una che abbia ville, villoni e abbia soldi. E ti metti a posto per sempre. Le pecore, ci vogliono le pecore pure. E le pecore già si possono comprare. Vabbè, basta che si munga però, Sempre, sempre. Vabbè. Quando vedo i bruci, si può far tutto. Sì. Vabbè, pure una fabbrica di preservativi può comprare. Gara. Dove sei, Daniel? Sono scendo della via Piglia, lo dai. Adesso risalgo verso il centro. No, che ho Luca, io ti saluto, dai, ce la risentiamo. No, ma stai andando, tu. Buonanotte. Anche io, dai, chiudo perché adesso me ne vado a Nanna, sono un bel stanco. Ci sentiamo domani, ciao Daniele, anche a te, ciao Lorena, buonanotte. A domani, ciao ragazzi, gappa. Dai raga, anch'io adesso chiudo, dai, vado a fare due passi così, dai. Buon trabacco e buona giornata per domani, dai. Salutone, ci ricordo a tutti anche l'eventuale ascoltone, dai. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte, dai. Ciao.